ci si trovano i vini del contadino, che li chiamano il paysan, quindi sicuramente si possono trovare un po' ovunque, e man mano che si sale sicuramente i vini diventano sempre meno cari, perché ci si allontana dalla Borgogna, dalla Bretagna, e quindi si vanno in luoghi dove diciamo i prezzi sono decisamente inferiori. Quindi io, cioè, non solo le ostriche si mangiano appunto nei paesi Bretagna, Normandia, ma si mangiano anche altri frutti di mare, quindi diciamo è una stagione quella dove andare veramente in estate, perché si trovano appunto frutti di mare e ostriche, ed è il momento migliore per abbinarle magari anche con le bollicine. Per il weekend con i vostri bambini, questa settimana vi segnaliamo Parma e dintorni, il labirinto dell'Amazone e i grilli del Parco Ducale. Il labirinto dell'Amazone è il più grande esistente, composto da piante di bambù, sono 200.000, alte tra i 30 cm e i 15 metri e sono di varie specie. Franco Maria Ricci, a cui si deve questa opera, nel descriverlo fa riferimento a Minosse. I bambini restano sempre molto affascinati dal Minotauro e dai labirinti in generale, e questa può essere l'occasione per perdersi con i vostri piccoli tra percorsi più dolci rispetto a Cnosso. Siete ormai in zona e allora fate un salto anche a Parma, e per non far annoiare troppo i vostri bambini, o magari per ricompensarli, portateli a correre sui grilli al Parco Ducale. A più di 60 anni dalla creazione di Manlio Battilani, il triciclo grillo continua ad essere una grande attrazione per i più piccoli e non solo per loro. La proposta per il weekend al mare. Questa settimana abbiamo deciso di tornare in Sardegna. Non vogliamo proporvela per queste settimane d'agosto, quanto piuttosto vorremmo che la teneste in considerazione per settembre. Le giornate sono più corte, è vero, ma la luce è diversa e le spiagge sono meno affollate, e anche i prezzi sono molto più abbordabili ed è possibile regalarsi giorni di mare davvero di qualità. La Sardegna poi resta sempre la regina. Dedicatevi alla costa ovest, che è spesso quella più trascurata. Nulla vogliamo aggiungere su Cagliari, perché è una città che non ha bisogno di presentazioni, e se non ci siete ancora stati è una lacuna che dovete colmare. Noi vogliamo concentrarci sulla costa, partendo da Porto Pino, la spiaggia delle dune, risalite e alla vostra sinistra potete godervi il Pan di Zucchero. Poco dopo Cala Domestica, risalite ancora e la costa vi porterà alla spiaggia di Piscinas e poi Is Arutas e prima San Giovanni di Sinis. A Capomannu poi potrete fare surf, e in modo serio. Qui infatti a ottobre si svolgeranno i campionati italiani. Ed è tutto per questa settimana, alla prossima!